dato il nome io palpito, qual se m'aprisse i cieli, un mondo di ineffabili, letiti a me. Paradiso il tenero, padre dischiuderà di mia corona il raggio, la gloria tua sarà. Paradiso il tenero, padre di stupore.